In laboratorio abbiamo ripetuto l'esperimento sulla legge di Archimede. Questo lavoro è stato realizzato dalle alunne Cascio di grado Tortorici e Grisafi. Innanzitutto facciamo una premessa di tipo teorico. Il principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato. Per effettuare la verifica di questa legge, poniamoci una domanda. Se immergiamo nell'acqua alcuni cilindri con massa differente, riceveranno tutti la stessa spinta? Per effettuare l'esperimento, utilizzeremo uno stativo su base triangolare, alcuni morsetti, un dinamometro della portata di 5 newton e della sensibilità di 0,1 newton, un cilindro di piombo, un cilindro d'ottone, un beaker e della comune acqua. Procediamo con l'esperimento. Prendiamo innanzitutto un cilindro in ottone e lo agganciamo allo stativo. Misuriamo il suo peso con un dinamometro. Il peso che rileviamo è di 2,05 newton. Poi riempiamo il beaker di acqua e vi immergiamo il cilindro che abbiamo prima pesato e notiamo che la forza peso rilevata dal dinamometro è diventata di 1,8 newton. Facendo quindi la differenza, notiamo che la spinta di Archimede sarà di 0,25 newton. Ripetiamo l'esperimento stavolta con un cilindro di piombo, la cui forza peso è inizialmente di 2,7 newton, mentre quando la immergiamo nell'acqua rileveremo che è di 2,45 newton. Anche questa volta la spinta di Archimede è risultata 0,25 newton. Allora possiamo concludere che questo esperimento ci ha fatto rilevare che la spinta di Archimede non dipende dalla massa dell'oggetto immerso, ma solo dal volume che esso occupa.